24 di Giovanni Minoli. Oggi parliamo di usura. Per il dizionario italiano, un interesse eccessivo sul denaro prestato che va oltre i limiti legali. Per chi l'usura l'ha vissuta, è una tortura senza fine, inestinguibile come cercare di svuotare il mare con un cucchiaio. Cominciamo con Luca, una vittima che ha raccontato la sua storia a Giovanna Corsetti. Guadagnavo bene, avevo il personale, pagavo sempre tutti, tasse, operai. Luca ha avuto per 15 anni un'attività commerciale, un piccolo imprenditore, responsabile e corretto. Poi è arrivata la crisi e con lei i debiti, tanti. Le banche hanno iniziato a chiedermi di rientrare con i fidi che utilizzavo per poter acquistare materiale e lavorare, e da lì sono nati i primi problemi. Luca insiste, spera che le cose cambino. Cerca i primi prestiti, chiede aiuto a familiari ed amici e poi un giorno... Avendo un'attività nella mia borgata che ha sempre stralavorato, queste persone dette usurai o cravattari, come si dice a Roma, si sono fatte sotto, mi hanno fatto vedere la facilità con cui si poteva ottenere del denaro restituendo... interessi mensili. Interessi a quanto? Dal 100-120% all'anno. Lei quanti soldi ha chiesto? Di quanti soldi ha avuto bisogno? Totale di soldi prestati sono stati circa 170.000 euro distribuiti nei vari usurai. E quanti sono diventati quegli interessi? E nel corso degli anni questi 170.000 euro sono diventati 450.000 euro. Com'è possibile? Le faccio un esempio. Se mi davano 10.000 euro, loro cosa fanno? Fino a che tu non gli restituisci la somma per intero, cioè i 10.000, tutti i mesi devi dare 1.500. Tu tutto quel denaro, i 10.000 intende, tutto insieme non l'avrai mai e continui ad andare avanti a pagare solamente l'interesse. E questo è il giochino dell'usuraio tipo. Ma allora perché ha continuato a chiedere altri soldi? Non aveva capito che non avrebbe potuto farcela? Il mio pensiero era quello di dire vabbè, ma questa attività è andata bene per 13 anni, adesso si riprenderà, riandrà di nuovo bene. E invece no, mi sono indebitato sempre di più. Poi utilizzando carte di credito ho fatto aprire conti anche ai miei figli. Lei ha idea di quanto ha pagato negli anni? Di interessi? Sì. Ma forse 400.000 euro. Cioè lei aveva avuto 170.000 euro, ne ha restituiti 400 e ne doveva ancora 450. Sì. Dunque un prestito iniziale di 170.000 euro che in meno di 5 anni diventano 800.000 euro. Interessi del 15-20% al mese, perché dagli usurai gli interessi non si calcolano annualmente, dagli usurai gli interessi corrono ogni mese. Ma chi sono usurai e vittime e come si comincia? La scheda di Giovanna Corsetti e del professor Maglio D'Agostino, docente di criminalità economica all'Università di Padova. Un problema nazionale quello dell'usura, anche se al sud va peggio che al nord, con il 67% dei casi. 7 su 10 sono uomini, tra i 45 e i 60 anni. In tutto sono quasi 500.000 le vittime di usura, 200.000 solo i commercianti, e ciascuno di loro spesso ha debiti con più strozzini, e così i numeri si moltiplicano. 30, 40, forse 50 miliardi di euro le stime del debito usuraio. Difficile avere dati certi. Tutta economia sommersa, nero, nel quale sguazzano poco meno di 50.000 usurai, che con la crisi se la godono quasi a rischio zero, perché a denunciare sono in pochi e le forme di usura molte. C'è l'usura di quartiere, vittima e carnefice si conoscono, tutti sanno tutto e se gira voce che l'attività, il lavoro o la piccola azienda è in sofferenza, un amico si trova sempre. Ed ecco come, dalla testimonianza anonima di un intermediario. L'anello di congiunzione non è mai diretto, c'è sempre qualcuno che fa da tramite con colui che poi realmente dà i soldi, l'amico, il negoziante o quei circoli culturali che poi in realtà sono vere e proprie bischette clandestine dove gira un po' di tutto. Si trova facilmente chi ti dà i soldi. In questi casi gli usurai sono spesso colleghi, amici, piccoli delinquenti, ma anche professionisti apparentemente rispettabili, a cui si rivolgono famiglie in difficoltà come commercianti o piccoli artigiani. A garanzia del prestito usuraio si accettano assegni postdatati, cambiali o anche procuri a vendere. Non paghi? Io ti vendo la casa o il negozio, così puoi saldare il tuo debito. Poi ci sono i professionisti dell'usura, reti di credito parallele alle banche, come organizzazioni criminali e mafiosi, associazioni per delinquere finalizzate all'usura, che sconfinano in riciclaggio, estorsione e traffico di stupefacenti. In gioco tassi di interesse altissimi, su volumi di denaro in grado di determinare il controllo di aziende, grandi patrimoni familiari e gruppi imprenditoriali. La testimonianza anonima di un intermediario. Chi chiede tanti soldi e chi può dare tanti soldi non si incontrano mai, ma chi chiede tanti soldi sa da dove vengono. Per cui diciamo che quello è il monito iniziale che ti fa pensare, vale la pena di farlo, poi alla fine ti guardi a destra e a sinistra, non hai probabilità nessuna di riuscire a risolvere i tuoi problemi e ti infili come gli struzzi con la testa nella sabbia. La prima e unica regola è pagare, rispettare puntualmente le scadenze degli interessi in attesa di restituire l'intera somma. E per chi non riuscisse a pagare, gli usurai hanno un braccio armato per il recupero coatto dei crediti. Giovanna Corsetti ha incontrato qualcuno addetto proprio a riscuotere da chi non paga. Poi esistono anche casi in cui effettivamente qualcuno non ha potuto restituire, lì poi si scende subito negli inferi del recupero coatto, come dicono quelli bravi, nel senso che ci saranno delle persone che andranno a convincere chi deve pagare in qualche modo di pagare. Si arriva anche a cose infide. Luca, cosa è successo quando lei non è più riuscito a pagare? Ti cominciano a minacciare la tua famiglia, i tuoi figli vanno sotto scuola, ti citofano sotto casa, cioè ti mettono quell'ansia, quella pressione che ovviamente tu in qualche modo devi trovare quelle somme per trovare altro tempo, no? Io pagavo il tempo. Avvicinate anche i figli, anche quando sono minorenni. E sono riusciti ad avere in mano magari per 30 secondi il telefono della figlia che usciva da scuola, e magari chiede di fare una telefonata perché magari si accampava la scusa del guasto della macchina. Insomma, i stratagemmi ne esistono, e fare rapidamente il numero della persona che non ti risponde dicendo lei sta bene fino adesso, la vogliamo tenere così sta ragazza, e attaccare, per cui la paura diventa tantissima. Luca, lei ha avuto paura? Come reagiva? Io addirittura pensavo anche di uccidermi, perché ovviamente pensi alla tua famiglia, che possono far male, violentare tua figlia, pensi il peggio, perché queste persone comunque sono legate al mondo criminale, e questo fa sì che tu in qualche modo devi proteggere la tua famiglia, devi trovare i soldi a tutti i costi, perché se no non vivi. Cioè, non, io praticamente per 5 anni non ho vissuto. Lei perché lo fa? Perché va a minacciare adolescenti per i soldi degli strozzini? Pensavo che ero molto più giovane negli anni 80, che la gente era scema a prendere soldi da gente che poi rischiava che ti picchiava o ti impauriva, e alla fine è successo pure a me. Ma succede a molti? Potrebbe aprire anche una parentesi su come alcuni personaggi che indossano la divisa arrotondano il proprio stipendio facendo il recupero. Militari che hanno accesso magari con più facilità, che ne so, all'interno di un palazzo, faccio un esempio, guardi al portiere, dicono sono un rappresentante d'esercito, si presentano col testerino, che riescono a salire magari al piano giusto, suonare e dire guarda io ti faccio una testa così, una faccia così, quelle sono le cosiddette minacce, che prima che sfogano magari al pestaggio vero e proprio ce ne vuole, ma si arriva anche a quello. Ma è sicuro che fossero davvero militari o forze dell'ordine? Non so i nomi, però li ho visti anche di un paio di rappresentanti delle forze dell'ordine con alcuni vizi. Il vizio cos'è? Cocaina, droga, cosa? Certo, cocaina, assolutamente. Sono dovuti ricorrere anche al prestito dello strozzino. Ma lei, i suoi debitori, quelli a cui va a chiedere i soldi, li conosce? Prima c'era pure più contatto, ma adesso spesso il debito si vende a persone che non hanno nessun principio. Cioè? Diciamo piccole bande rumene o piccole bande albanesi, che è ancora peggio. Quando a un certo punto ti si dice che il tuo credito non è più per la persona X ma diventa per la persona Y, lì devi stare molto attento. In qualche modo quelli riprendono i soldi, eh? In genere si vende il restante al 50%. Devo prendere 1000, dammene 500 e te ne fai dare 1000. E con quale frequenza le va, diciamo, a recuperare denaro? Gli ordini quali sono? Tutte le settimane devi portare la tua quota, tutte le settimane. Non è che c'è una settimana o due o tre di stacco e dici adesso mi riprendo, risparmio un po' su questo o su quello. Tutte le settimane devi presentare al giorno prestabilito, all'ora prestabilito, nel posto prestabilito. Non si discute. Lei, Luca, quando non ha più potuto pagare, cosa ha fatto? Quando ho visto che o la mia famiglia o loro, ho salvato me stesso e la mia famiglia, arrivando poi alla denuncia. E a quel punto ti cambia il mondo, ti cambia la vita. Di fronte alle minacce, alle estorsioni, resta solo una possibilità: denunciare. In Italia sono molte le associazioni che aiutano chi dice basta e denuncia. Giovanna Corsetti ha intervistato il presidente dell'ambulatorio anti-usura di Roma, l'avvocato Luigi Ciatti, per conoscere quali risorse si possono attivare denunciando. Denunciare è davvero l'unica strada e può convenire. Quando arrivano da noi le persone sono in situazioni disperate. Il primo lavoro che noi dobbiamo fare su loro è convincerle che sono vittime di un reato, convincerle che l'usuraio non è un amico, un benefattore, ma è un criminale, perché molte volte la persona che va dall'usuraio lo ritiene l'unico che in quel momento l'ha aiutata. Professor D'Agostino, quali sono le pene previste per gli usurai? Il reato di usura viene punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con una sanzione anche di carattere pecuniario che oscilla tra i 5.000 e 30.000 euro. Solo da sottolineare che a questa pena può essere condannato non solo chi ha commesso direttamente il reato di usura, ma anche chi favorisce il reperimento delle somme, quindi chi agevola l'attività dell'usuraio. I cosiddetti intermediari. I cosiddetti intermediari, sì. Ovviamente parliamo di casi di concorso in reato. Avvocato Ciatti, quante sono le vittime che denunciano? L'usura è un reato purtroppo sommerso. È il reato, oserei dire, più sommerso e viscido che esista. Una delle caratteristiche è quella che le persone non denunciano e quindi avere il polso di ciò che succede sul territorio è molto molto complicato. Avvocato Ciatti, come fate a sapere che ce ne sono tanti che non denunciano? Ci sono anche dei segnali. Cioè? Quando una persona denuncia un usuraio e la polizia giudiziaria fa gli atti, un atto a sorpresa, cioè va a casa dell'usuraio e trova i documenti di questa persona, trova che al di là la vittima che ha denunciato è una, ma quella persona, l'usuraio, ha rapporti con altre 50 persone. Questo cosa ci fa dire? Che a fronte di una vittima che denuncia ce n'erano altre 49 che non denunciavano. Luca, lei come vittima ne ha conosciuti altri nella sua situazione? A Roma ti posso dire che 9 commercianti su 10 stanno sotto usura. Anche nella mia zona c'erano tante persone che stavano così e che non hanno avuto il coraggio di denunciare e gli hanno tolto tutto, tutto, tutto. Professor D'Agostino, per le vittime che denunciano, quali supporti possono avere? Cos'è previsto per loro? Da diversi anni in Italia lo Stato ha previsto 2 diversi fondi. Avvocato Ciatti, come funziona il fondo per le vittime dell'usura? Chi denuncia, quindi trova il coraggio di denunciare, è un soggetto che svolge un'attività economica, può accedere a un fondo dello Stato che serve proprio a una parte ripianare la situazione dei debiti, chiaramente parliamo di debiti legittimi, quindi debiti appunto con soggetti creditori sani, non con criminali, i criminali li denunciamo tutti, e una parte va ad investire nella sua nuova attività economica. Quindi è bene che la gente lo sappia, che sappia che una via d'uscita c'è, che non bisogna rimanere soli, che bisogna avere il coraggio di alzare la mano e chiedere aiuto. Professor D'Agostino, a quanto ammontano gli aiuti economici? Nel caso del Fondo di Solidarietà, nel 2014 il Ministero degli Interni ha valutato circa 660 istanze per un totale di erogato di circa 8 milioni e mezzo di euro. Invece per quanto riguarda il 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stanziato circa 32 milioni di euro per quella garanzia per imprese e famiglie che sono a rischio di usura. Solo da sottolineare che questi 32 milioni di euro derivano anche dalle sanzioni antiriciclaggio, quindi anche una filosofia, un'educazione al creare cultura della legalità attraverso la legalità. Brutto, bruttissimo mondo questo, da evitare finché possibile. Anche la nostra Soda Cesira però, in un modo più allegro e meno drammatico, ha il suo punto di vista. Capirai, adesso c'è pure Natale. Aspetta, allora ho la bolletta del telefono, la rata della palestra, cazzo, c'ho pure il condominio. E poi ho bisogno di cambiare la televisione, fare i doni di Natale, pagare la pigione. Vado in banca ad esporre la preoccupazione, chiedo un prestito con piccola agevolazione. Da quando l'interesse passivo è al 10%, ma vi state drogando. Domando sul conto corrente mi date lo zero, ma state scherzando. Poi chiedete bene al sole, una casa in garanzia, qualche organo d'espianto, la dentiera di mia zia. E se non può bastare, beh, devo rimediare. Vado dallo strozzino che è più carino, se lo vedessi è un signorino e mi sa coccolar. Non mi fa preoccupare, perché questo strozzino è comprensivo. Se non hai soldi hai un mignolino da fratturare e gambe da spezzare. Ma no, no, no, ce l'ho, è solo che devo andarli a prendere. No, dai! E adesso con Alessandra Fiori, come ogni settimana, sentiamo cosa vale la pena di leggere, vedere, ascoltare in questo weekend. Ho letto un libro molto bello e dolorosamente appassionante. Racconta la storia di un maestro elementare quarantenne, Nani Sapienza. È solo, la figlia Martina di 8 anni è morta e sua moglie lo ha lasciato, ma non per disamore, ma piuttosto per non vivere la quotidianità di una vita e di una famiglia spezzate. Una notte il maestro sogna la scomparsa di una bambina che somiglia a sua figlia e al risveglio il sogno è realtà. E nella cittadina di Esse una bambina è effettivamente scomparsa. Proprio quel sogno, come un richiamo della coscienza civile, trasforma il maestro in un tenacissimo investigatore. Il libro è La bambina e il sognatore di Dacia Maraini. Ecco, Dacia Maraini, questo è il suo 14° romanzo e per la prima volta ha scelto una voce maschile. Qual è stata la parte più difficile dell'entrare nella mente di un uomo? Guardi, all'inizio pensavo che fosse difficilissimo per quelle abitudini mentali che abbiamo, alla separazione anche psicologica e ai compiti di un sesso e l'altro. Poi invece, parlando in prima persona e assumendomi questa prima persona, invece mi sono accorta che poi in fondo, alla fine, gli esseri umani sono esseri umani, quindi agiscono più o meno nello stesso modo. Poi naturalmente ci sono differenze e differenze, però quello che mi ha colpito è quanto il desiderio di paternità sia sentito dagli uomini. Quindi siamo più simili di quanto non sembri. Sì, mi ha colpito per la sua bellezza, per la sua gioia, e perché ho pensato, ma quante convenzioni abbiamo e quanto abbiamo censurato nella separazione dei compiti questa cosa, come se la maternità, come se fosse una cosa, fosse l'unica valida di attenzione, l'unica vera nei riguardo di un nascituro, mentre invece no, il desiderio di paternità è fortissimo e credo che sia stato censurato. Senta, lei ha detto che da sempre sono i personaggi a venire a bussare alla sua porta, ma anche in sogno come per il suo protagonista? Sì, un po' è così, vengono a bussare alla mia porta, infatti questo maestro è venuto a bussare alla mia porta con una certa insistenza, io l'ho accolta un po' perplessa, ma dopo però mi ci sono affezionata tantissimo e mi sono ritrovata in lui. Il maestro Nani è un grande raccontatore di storie e proprio attraverso la seduzione del racconto conquista e stimola i suoi studenti. È questo il potere formativo della letteratura? Questo me ne sono accorta proprio inseguendo un po' le storie di vari maestri nelle scuole. Quando l'insegnamento diventa didattica, diventa l'insegnamento classico, da una parte la cattedra, dall'altra gli studenti, da una parte il libro sacro, diciamo così, e dall'altra gli studenti, le cose si fanno noiose. Mentre se il maestro esce un momento dal suo ruolo e comincia a raccontare una storia, ma non una storia qualsiasi, una storia che in qualche modo è inerente all'apprendimento, e invece i bambini si fanno attentissimi. C'è un istinto di un piacere di ascoltare storie che appartiene a tutti. Senta, nel 1973 da un'inchiesta sulle carceri femminili è nato il suo Memorie di una ladra, che sì, poi è diventato questo film. Ciao, sono Teresa, sono tornata. Ma che è successo? È morto libero. Era il più giovane e il più bello. L'hanno mandato in guerra, è stato prigioniero. Da quando era tornato non parlava più, non rideva più. Non era riuscita a trovare un lavoro. Così si è buttata sotto al treno per stanchezza e rompicuore. Il treno l'aveva spaccato un quattro. Poi l'avevano tutto ricucito che sembrava intero. Tutte quelle fasce. Bianco come una mummia. A 25 anni. Allora dissi: l'Italia è proprio fatta a cazzo di cane. Vergognati. Parlare così davanti a un morto. Ma vergognatevi voi altri. Era Monica Vitti in Teresa la ladra di Carlo Di Palma, un ritratto sociale amarissimo, ironico e autentico. Lei oggi a chi affiderebbe una sua storia? Ah beh, ci sono tanti registi bravi, intanto comincerei con Faenza perché ha già fatto un film bellissimo su Marianna Ocria. Poi ci sono tanti registi bravi. In questo momento c'è un regista che si chiama Irish Blaski, un giovanotto che fra l'altro ha appena avuto un bambino di cui è pazzo, che sta montando su un film su un ultimo mio libro che si chiama Amore rubato. Questo sarebbe il suo primo film, ma lo sta facendo insieme con De Cataldo nella sceneggiatura. Tra i libri che ha letto nell'ultimo anno, qual è stato il suo preferito? Io ne leggo tantissimi. Qual è stato il mio preferito non lo so, posso dire uno dei, ma per esempio questo di Maggiani che si chiama Il romanzo della nazione è un bel libro, però appunto non voglio mettere in ombra gli altri libri che sono usciti, molti libri belli quest'anno veramente. La bambina e il sognatore di Dacia Maraini Rizzoli. Eccoci Pietrangelo, eccoci. Dove andiamo questo venerdì? Questo venerdì proprio no. No. Pazientiamo, c'è venerdì, poi c'è sabato e domenica andiamo a Napoli, al Teatro San Carlo, alla prima della Carmen di Bizet diretta da Meta. E ti porto, ascolta. Ecco, riconosci? Carmen. Sì. E per farcela spiegare bene, io ti porto al cospetto del maestro Nazareno Carusi. Sa benedica, maestro. Sa benedica, Pietrangelo. Il problema è che maestro lo togliamo, perché io ogni volta che sento Horowitz che suona le sue variazioni sulla Carmen penso di cambiare mestiere. Cominciamo così. Buongiorno, maestro. Buongiorno a buongiorno. Voi. E buongiorno a tutti. Maestro, qual è il rapporto di un pianista con la Carmen? È lo stesso rapporto che un pianista ha con le donne. Ah, addirittura. È certo. E le donne sono belle, sono curve, come il pianoforte, hanno delle anse, si toccano. E la Carmen tutto questo esprime. Probabilmente Horowitz non è che non pensasse a questo quando ha scritto, no, se le è completamente inventate queste sue variazioni, così tanto famose e così tanto belle. Senta, per Nietzsche comunque la Carmen è il segno di Dioniso. Ma quindi c'è una grande sensualità nel suonare. Ah certo, poi naturalmente Nietzsche la diceva alla sua, qui non siamo Nietzsche, io soprattutto non sono Nietzsche, in termini molto più poveri. Sicuramente tutte le melodie della Carmen hanno dentro, sia quelle dedicate da Bizet a Carmen, sia quelle dedicate da Bizet a Micaela. Ecco appunto, ma lei preferisce Carmen o Micaela? Micaela, potrebbe sembrare strano, sì, perché sarebbe più difficile e allora la sfida è più interessante. Io approfitto della presenza del maestro Nazareno Carusi, dopo aver invitato gli ascoltatori ad andare a Frotte al Teatro San Carlo per ascoltare e godere la Carmen di Bizet, approfitto della sua presenza, sapete perché? Illustri signori della regia, illustrissima mia Alessandra, perché non c'è migliore occasione per fargli commentare la sigla, perché un genio della musica qual era Totò, ecco, al cospetto c'è non so Nietzsche. Se avete sentito il zan zan zan che c'era sotto, era il mio, era il suo, di fronte a certe cose non ci si tiene, e quindi io direi mandiamo la sigla col commento del maestro Nazareno Carusi. Sigla. Meraviglioso. Madonna, pensate a Totò con i sonagli piatti, è straordinario. Grazie, la mosca. Grazie a voi. Il cigno di Caianello. Grazie. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. E adesso andiamo al cinema con la nostra inviata molto speciale. Donatella, buongiorno. Buongiorno, ciao. E che allegria, Donatella, che è successo? Sono contenta perché finalmente mi avete mandato a vedere un film un po' allegro senza gli intellettuali dentro, che di solito mi faccio due palle io. Ah, che bello, Donatella. Ho visto 111 donne a Parigi, che mi piace. 11 donne a Parigi, 11. Dici? Dico, sì. Perché ho messo... tre uni, sono due. Va bene. Comunque ci sono un sacco di donne a Parigi che hanno i problemi loro. Una per esempio c'è i problemi intestinali, che infatti quando deve, insomma, vabbè. Beh, molto guanti, interessante. Sì. Poi? E poi ci sta una che guida l'autobus, che prende una botta in fronte e diventa sessualissima. E poi c'è pure una che quando arriva la babysitter Caruccia, adesso Caruccia, avevo gnocca. Bene. Tu pensi adesso il marito se la trova. L'amoreggia. Sì, amoreggiano, infatti. E invece ci va lei. Sono la babysitter. Nessun problema. Non me la immaginavo così. Così come? Con le tette. Ah, è questo che ti dà fastidio, che tu hai i seni piccoli. Che ho i seni piccoli. Vuoi farteli rifare? Tu vuoi farti rifare il pisello, un bel pisello? Brava! Perché io non capisco, se noi ci dobbiamo rifare le tette, scusa, allora voi rifatevi il coso. Ecco. Oh, ecco, ecco, sì. D'accordo? Molto d'accordo, in effetti. Brava. Comunque il film parla del sé. Allora, questo l'hai capito. Però parla anche della fedeltà, dell'amore, sì. Però delle donne. Dal punto di vista delle donne. Sì, quelle che non hanno il pelo nella lingua, capito? No. Però queste hanno, quelle che non hanno il pelo nella lingua, però hanno una bruttissima, te lo dico, una situazione di denti proprio strani. No, non la seguo. Allora, c'è un'attrice, ma che Caruccia, però poi a un certo punto apre la bocca e in mezzo ai suoi denti davanti ci puoi passare pure col motorino. Ma no, capito? Donatella, ma quella è Vanessa Paradis. Sì? Vanessa Paradis. No, mi sa che è la moglie di John Depp. No, sì, cioè è proprio lei, è la ex moglie di Johnny Depp, Vanessa Paradis, che tra l'altro è considerata molto affascinante anche per questa sua particolarità dello spazio in mezzo ai denti. Dei denti? Vabbè, i gusti sono gusti. Però comunque ci sono anche altre attrici francesi carine, però sono un sacco di accenti. Tipo c'è Alice Bellai. Guarda, ma lo sa che non c'è bisogno, facciamo meno? 11 donne a Parigi, vale la pena vedere questo film? Uffa, mi parli sopra. Oggi non mi sei simpatica. Comunque sì, il film mi è piaciuto un sacco. Bene. Però a te non ti piace. Perché? Ti piacciono i film che parlano e basta e non succede mai un... Ma non è vero. Due palle. Va bene. Allora... Io lo consiglio. Lo consiglia. Bene, Donatella consiglia 11 donne a Parigi. Sì. Grazie. Chi si è offesa? Ed ecco la musica con Franco Schipani. Ciao Franco. Ciao Alessandra. Ma che bella storia quella di Malika Ayane, Alessandra. E perché? Ah, perché, guarda, è una vita variegata, artistica, intendo. C'è la Scala di Milano, c'è il Festival di Sanremo, gli spot pubblicitari e poi importanti premi della critica. Comunque, se vi volete divertire a vederla dal vivo, la prima occasione è proprio questa sera al Teatro Aristono di Sanremo. Che non riconosce questo pezzo, dai. Ma meraviglia, meraviglia. C'è il concerto di Michael Jackson? No. Lui? No. Anche guarda, se ci sono degli artisti tipo Michael Jackson e Elvis Presley che guadagnano più da morti che da vivi. Eh beh, certo. Cioè, cosa pazzesca, numeri che noi non sappiamo neanche come scrivere. Comunque, il mito di Michael Jackson rivive a Padova domani 12 dicembre al Gran Teatro Geox. Va di scena il più famoso sosia al mondo del re del pop, Sergio Cortez. Io vado. Ci vai? Mi sa di sì. Ti vedo ballerina. Che si esibirà comunque. Beh, lui è un Michael Jackson perfetto e questo è il suo live tribute show. Due appuntamenti da non mancare, Alessandra, perché ne vale la pena. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Ecco, la sua arma era l'ironia. Grande osservatore Giorgio Gaber riusciva sempre ad esplorare le contraddizioni del nostro paese, però con eleganza, con intelligenza. Comunque è la storia di un giullare, ma anche di un filosofo, sempre dalla parte dei più deboli. E questa storia ce la racconta Giovanni Minoli, quindi restate con noi. Bevian, per colpa del mio amor, parapapa, per colpa del tuo amor, parapapa, ai no. Nostri dolori insieme brindiamo col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne.